Questo progetto nasce originariamente nel 1991, quando Giorgio Leccardi, batterista degli Idoli e all'occasione anche chitarrista, andò da Lucio con la registrazione di alcuni concerti fatti nel periodo tra la fine degli anni 60 e i primissimi anni 70 e lo convinse a pubblicare un disco che in qualche modo accendesse il riflettore su quel periodo storico molto importante nella carriera di Lucio, che era successivo ai Flippers, all'epoca jazz e tutto il resto, e anticipava invece la pubblicazione della discografia più ufficiale, perché in realtà c'era stato un album 1999 che era uscito nel 1966. Però quel periodo lì con gli Idoli, che va dal 69 al 70-71, è in corrispondenza dell'inizio della discografia ufficiale vera di Lucio Dalla con la RCA, in particolare Terra di Gaibola, il primo disco, e Storie di casa mia, il secondo disco. Poi, come sappiamo, ci fu la parentesi con Roberto Roversi, la trilogia e via discorrendo tutto il resto. Quindi 1991 è l'anno di partenza di questa nostra avventura, ma proprio recentemente, negli ultimi due anni, grazie anche alle frequentazioni di casa di via Massimo D'Azeglio a Bologna, sono venuto in contatto personalmente con Giorgio Leccardi, con Barlozzari, con Cabassi, con gli Idoli, e raccogliendo le loro testimonianze sulla carriera, la storia che li ha legati a Lucio Dalla, sono venuto a conoscenza del fatto che Leccardi stesso aveva recuperato dei nastri ritenuti smarriti per sempre, che invece improvvisamente tornarono disponibili qualche anno fa. Quindi a quel punto, insieme, d'accordo col team della Pressing, abbiamo pensato che sarebbe stato utile e interessante per tutti riaccendere questo riflettore su un periodo specifico della carriera di Lucio Dalla che forse è meno conosciuto e meno diffuso dal punto di vista mediatico, che è quello appunto tra la fine degli anni 60 e i primissimi anni 70. Abbiamo recuperato questi nastri, li abbiamo ascoltati, ci abbiamo lavorato insieme con Paolo Piermattei della Pressing, con Stella Caracchi per la parte visual e tutto il resto, ma soprattutto con Maurizio Biancani. Naturalmente la qualità di queste registrazioni era tale che necessitava di essere ritoccata, e credo che Maurizio abbia fatto veramente un lavoro egregio per rendere questi nastri più che dignitosi all'ascolto attuale. Ci sono tante cose da dire e da raccontare, e preferisco che siano i protagonisti dell'epoca a farlo. Giorgio, magari raccontaci di come hai recuperato questi nastri che pensavi che fossero andati perduti e poi invece improvvisamente sono stati recuperati per realizzare questo prodotto. Cioè, è successo così, che io tanti anni fa prestai questi nastri ad un amico e niente, io poi mi ero dimenticato di averglieli dati. Lui, per onestà, un giorno mi chiama, dice: ma sai che c'ho dei nastri qua? Dice: c'è scritto Lucio Dalla. Dice: ma è roba tua? Ah, dico: wow, sai, può darsi. Andai subito a casa sua e riconobbi subito la copertina, poi mio figlio che ci aveva scritto sopra delle cose, li recuperai in quel momento e io immediatamente informai Lucio, no? Gliel'ho fatte anche ascoltare queste cose qua. Si emozionò come la prima volta che fece ascoltare il primo nastro di Geniale nel 91. Era convinto di pubblicarlo perché lui ci teneva molto. Poi purtroppo Lucio non era più fra di noi e la cosa è diventata un po' più difficile da gestire, però alla fine ci siamo riusciti, insomma, grazie all'impegno di tutti. E poi tengo molto in particolar modo per il fatto di ricordare gli Idoli, perché gli Idoli non sono stato un grande gruppo, era un gruppo che accompagnava più che altro, però secondo me era stato dimenticato troppo in fretta, ecco. La pubblicazione di questi dischi qua fanno tornare, insomma, all'attenzione questo gruppo che secondo me merita tanto, non tanto perché io ci faccio parte, ma anche perché abbiamo vissuto la prima parte di Lucio, che è stata anche sofferta, perché Lucio ha cominciato a vedere rosa, diciamo, dopo che fece 4 marzo, ecco. E prima, insomma, le cose erano più difficili da fare. Comunque gli Idoli, come dicevi te Paolo, hanno partecipato alla registrazione di 1999, Terra di Gaibola, Storie di casa mia, altri 45 tipo Lucio dove vai, che poi tu Paolo lo sai come li ho registrati, mettendo un microfono su una sedia, attaccandomi un po' all'impianto, così, insomma, ecco, qualcosa è venuto fuori. Si registrava con registratori di questo genere, insomma, che non si poteva pretendere più di tanto, però, diciamo, con la mano di Maurizio qualcosa vi ha tirato fuori. Esatto, infatti Giorgio, bisogna dire che la qualità di registrazione originaria del registratore appoggiato su una sedia davanti alla batteria, sì. Probabilmente avrà pensato intensamente Maurizio Biancani quando in studio ha cercato di migliorarlo facendo veramente un lavoro egregio che poi ascolteremo tutti. Secondo me mi ha anche odiato un po', sai. Questo è un disco particolarissimo, cioè è la prima volta che io faccio un'operazione così proprio di restauro quasi della preistoria di Lucio, questo periodo, come hai detto giustamente te, un periodo di Lucio che era stato praticamente molto dimenticato, come erano stati dimenticati anche un po' gli Idoli, come diceva prima Giorgio, che invece sono un gruppo fondamentale, secondo me, un gruppo che ha consentito a Lucio di imparare veramente a fare l'artista. Ma da quei nastri usciva una energia, una musicalità e una genialità, come dice giustamente il titolo del disco, che secondo me è proprio centrato. Poi col punto interrogativo finale, che è ancora più bello, che è veramente pazzesca. Cioè Lucio con la voce in questo disco qui fa quello che vuole, cioè con un'estensione incredibile, cantando in questo finto inglese che gli permette di essere uno strumento praticamente, perché non ha le limitazioni della lingua, e il gruppo lo accompagna, ci sono dei brani soul, funk eccetera, lo accompagna in una maniera incredibile. Non è un disco per puristi dell'hi-fi, cioè l'abbiamo già detto, è un disco monofonico, le registrazioni sono state fatte in maniera molto garibaldina, ma grazie a Giorgio le abbiamo recuperate, e questo sistema della doppia microfonatura, cioè il microfono sulla sedia e quello che veniva dal mixer, che era la voce di Lucio e delle volte la tastiera, quindi Lemond, mi hanno permesso di avere quasi una registrazione multitraccia, quindi non in tutti i brani purtroppo, ma in alcuni brani si è potuto valorizzare di nuovo la voce di Dalla, che trascina tutto dall'inizio alla fine. Va bene, credo che Cabassi finalmente sia riuscito a collegarsi. Raccontaci l'esperienza di quegli anni. Quegli anni è stata veramente una cosa che mi ha dato tanto. Diciamo che quando incontrai Dalla, che lo conoscevo già dal 1964, poi seppi che andò a Sanremo, io gli avevo raccontato che avevo un gruppo, mi chiese se ero disponibile ad accompagnarlo nelle serate. Io naturalmente, avendolo sentito cantare, dico certo, parlai con i miei amici del gruppo e decidemmo di andare a suonare con lui. E questa era un'esperienza, perché c'era la possibilità di esprimere noi stessi al massimo.